Hola. Ok. Oh, signor Bacchisio. Dottor Fagosa, mi tenia a giocare. Signor Bacchi. Ciao. No. Signor Bacchi. Buonasera, c'è Otto, va bene. Buonasera, c'è te. Come vai? Impegni mondani. Oh. Ieri sera ti stavo aspettando. Da davva. Ho fatto i tardi. Adesso vedo che ho mezzo passato. Poi stavo facendo, trovo sempre gente, quando arrivo alla casa vedo lui. Ho immaginato. Stavo facendo, sempre tutti l'uno perché blocca. E hai fretta, nulla va. Fatele così. Sei troppo vigente e poi da ragionare un po' in più, un po' che date di se bassarura. Poi non è quella che è, non c'è molto. All'altro poi si deve chiudere per il campo di medicina da Bolvaria e non vedo spazio. Adesso le giornate stanno cominciando a essere un po' più lunghe, più corte. E dunque si rientra prima a casa. Infatti, io stamattina ero dalla Lufa, ero ho fatto un po' di garrida, ho condurrato. Torna su, sei portato. Stava benissimo, come giornata stava bene. Faccio pulito i rughi, tutti e tre, faccio pulito, che mi pare che non farava nessuno. C'è a caldo stamattina però, stasera è un po' più fresco, ma stamattina c'è a caldo. Sì, stamattina si stava bene, anche se era nuvoloso lì, si stava bene. Solo che mi è toccato a ricamminare, vado da lontano. Ah, lontano lei va bene. Quando non vedo, i frati della mamma non ne riempiono, è compreso. E non c'è acqua nel bidone grande che c'ha. Quindi l'ho dovuta prendere al vascone, l'ho dovuta prendere. Se pulita se va bene lo stesso. Non è la stessa pulita, ma purtroppo chissà cosa avete, però. Solo che oggi potuto camminare un po' caldo a regagnare con i bidoni. In macchina si può andare? No, non è sei, sono 10 metri da dove. E allora non trovo. Sei vicino, poca strada. Mi pare che sono un po' caldo fanulloni. Soprattutto attacca un motore e riempire dalla cosa. Infatti speriamo ce ne abbia un padrone quando anda a riempirlo. Se non riempire, asciutto che si. Ho dovuto pulire il posto io. Mettergli l'acqua pulita, che chi se va e va via ne la vedi vedi. Beh, l'acqua diventa verde al caldo. Diventa verde, l'acqua ferma, l'acqua è stagnante. Quella ogni due giorni bisogna cambiarla. Ma a me non piace così. L'acqua va cambiata ogni giorno, non lasciata aggiungere, devi aggiungere vita, no. Svuotalo, puliscilo e rimetti l'acqua pulita. Non che devi animare come ti giochi tu, no, che devi venire e va vesci. Signor Bacchino, sei uscito? Non sono uscito, allora... è stato malato all'inizio. No, in questo passaggio si è uscito, ma l'altro no. E come entra a staccare a questo malattino? Andiamo e andiamo. Perché l'altro è freddo, se no gli ha preso l'altro. Non è andato, bisogna farli calire, si è sparito. Bisogna farlo scaldare. Allora, proprio mi calire. Metto sul fornello. No, le cose c'è il fornellone. Se lo accendo, lo possiamo modulare. selvaggio da contratto. Io adesso mi domando, ma c'è un coso, il giocatore è messo su questo palato, ma l'altro che sta scaldando entra in armonica. Si fa l'armonica, si fa. Sì, al marino, sentito vai. Se si obbliga, la seconda licenza anche in dillo. Strano, però. Strano, deve essere ancora travagliente. Non lo so, guarda. A meno che non sia pure il dottor Logoso. Nulla. Gli avevo dato un messaggio, una fotografia gli avevo dato, della banana che c'è in campagna. E non mi ha dato risposta. Avevo di manco telefono, non l'ho mai dato. Ma vai che si è ricoverato, no? Penso di no. Se no gli avevo fatto sapere. Ma cosa puoi ti dica? Ci faccio già ben nulla. Stasera non lo so, ma non che non sia andato in qualche paese. In campagna è andato quella giornata? Non penso, no. E anche tu è andato via a casa. Anche. Se è andato a vedere qualche sagra, perché adesso nei paesi ci sono due queste sagre, feste, contro feste. Purtroppo è così. Bisogna essere dei tranquilli. Erbacchi, non da voci. Adesso Graziano, che sentito voi? L'altra sera l'ho sentito, mi sembra. Venerdì o giovedì l'ho sentito. Che l'ho sentito? Neanche in PMR l'ho sentito io. No, io l'ho sentito il giorno prima in PMR e poi l'indomani l'ho sentito sulla 27. Non c'era l'angolino, ve l'ho fatto là. Ma la moglie ha detto che non vuoi intendere nulla. Non c'è più nessuno, tutti ancora in ferie sono. Ma si può entrare, cioè, se no si stanno dove sono. A Giulio ne ho più sentito, Giulio se vuoi si vede in dillo. Mi sa che tu pure sei arrato e la puoi dare in tutto. Ah, se fosse tutto sotto a fiamme. Sì. Prima andando spesso, ma invece tu pure io si va accanto a Dubu. Cosa fai? Tanto sarebbe tutto, non vengono, se lo faccio 10 minuti che andrò una gana. Capito? 10 minuti, un quarto d'ora, 4 chiacchiere, 4 barzellette e passa l'ora. Infatti, tanto va a passare mezz'ora, tre quarti d'ora, un quarto d'ora, avanza, invece, non dà di nessuno. Marino, ma si è più inteso, più di una ghetta che non intendo più. Sto chiamando al telefono, adesso mi rispondo. Prova a vedere, già sono qua. Telefono squilla, sì. Pronti, buonasera signor Marino. Come la va? Ehi, acceso. Accendi. Cosa posso per ora? Yeah. E allora... Andrete. Nel banchino sei scendi. Adesso scendo sto. Adesso sì. Ma sta entrando. No, adesso un po' su questo tasto del microfono che... Tanto lei deve sapere che cazzo ci ho messo. Se l'acqua io devo fare un'operazione a fare. Adesso accende Marino, accende. Cosa è successo? Lavorando dice che sta. Ah, fallisce. Vabbè. Salvacchi, quel tasto mi sa che non funziona più. Bisogna pulire la terra, guarda adesso. Adesso sì, a poco fa, non dà. Perché quando la lontano dalla bocca vuol dire non si sente, vuol dire la capsula sta andando a farsi fare. Sicuramente, o è bassa di coso, o si abbascendi. Non mi devi dire, ti faccio un biglietto. Vabbè, non c'è perché andare a vedere che non ne busca un'altra. Che buonasera. Che a te mia signor Marino, mi. Sei vivo, sì. Grazie a Dio, buonasera a tutti, non so di c'è. Avanti, ma chi c'è, buonasera anche a lei. Ciao Marino, buonasera anche a lei. Caspita. Ma lì, anche da lì, Marino, non mi riesco a tratti. Sì, avremmo. Io qua sto tutto bene adesso, vabbè l'ho appena acceso, dunque non lo so, il signore come al solito, sempre 9.15, avanti da chi? No, professore, ogni po' mi dice non stai uscendo, non sto uscendo, e non sto uscendo, non sto seduto nella sedia. Esatto, se sei a casa, scusa, dove devo uscire? Non ho capito io. Avanti, Tore, scorretto. Certo. Senza fatto intendere una sera, nulla, gara, se così, Lavoro in corso, to, lavoro in corso, con te non lo fa tardi, è acceso, ho acceso per il volto, non è mai già tardi, eravate tutti scialisti, tutto qui, avanti. Andiamo, andiamo, l'importante è prima il travaglio da voi, se ne avanza del tempo si va, se no, pazienza. Riprendo il signor Bacchi. Questo tempo va bene, se no Piacenza, ma è il miglior Roma quello di Piacenza. Esatto, sono il giorno Roma, stavo approfittando questi giorni, dunque ho fatto dei lavori e a quella sera finivo tardi, si accendeva, ma voi dopo le 8 siete tutti a letto, tutto qua. Avanti, to. Già, che dura, già remo. Bagagli e bagagliette ce ne andiamo. Allora, signor Giovanina, non c'è? No, stasera no. Ieri sera siamo rimasti per un quarto d'ora, va bene, ma da bui. Ho già arrato. No, perché da qui non vedo, forse in campagna va già persa. Non lo so, avanti di Bacchi. Giovanina, stasera deve essere sempre ospiti, dunque non ha senso. Oppure è il giorno festivo e non lavora Don Maria, capito? Grazie lui. Questa cosa è bella, non vero? Sole, e la lupa come va? Già sta bene, stamattina c'ero da lì. Già sta bene, però devo acciappare un lupo, quindi con il mio più vicino. Ma c'è il giardino, c'è la rete, per le tutte le fai un piccolo spazio per la tua lupa. Sotto casa la penso io. No, non si può fare. Te la ammazzano così. Vabbè, avevo il puntino, avevo la zona posta, quello è vero. Per qualsiasi giorni lo chiedi tutti, no? La famiglia è. Ah? Sta già compreso, no? Per questo di tavolo c'è sotto, lo chiedi di chi se l'ha preso? Se i gainobi, i buri e tutto, da buri ti ammazzano. Mi appano i vulconi, mi appano. Cosa è vero? Vabbè, avanti, Bacchito. Adesso ti prendo un paese di campagna, 10 ettari, ti fa la casetta per il cane e 10 minuti anche tu. Poi giù per te. Avanti, Bacchito. Da porto da Maria, da porto da Gianni, il mio vicino di campagna. Già molto buoni. Tanto ce ne sono tre, uno più brutto dell'altro. Sono tre bestioni adesso. Cosa tre, saranno quattro e non cambia nulla, non cambia. Allora, zitto. per adesso la lascio lì, poi guardo se riesco a trovare un posto, se no, pazienza. C'è uno che tiene il cane, forse vicino a campagna, all'Ovestrani, vicino a Marini. Sono dei ragazzi che mettono dei cani e hanno la casa per i cani, capito? Sì. Se riesco a trovare un qualcosa lì, non so, sto guardando se trovare qualche posto. Ma qui è vicino, dovrebbe essere vicino, scusa, se vicino a Marini, fa la salita, se ci sono Marini, si è arrivato, e se la sinistra. No, lo voglio dare ad altra gente, no, se devo trovare è troppo un pezzo di terreno per me, è cose che riesce a fare, ma lo fai in di bocca. Lo devi cercare, trovo. Devi cercare un pezzo di terreno e devi fare una bella recensione, una bella cucetta che sia a posto. Devi cercare, lo so. Sì, io piano piano se vuoi difendi, ma chissà, io non faccio prima il video, poi che si tiri. Ma questo non va adesso, non devo rimanere fissa qua. Non lo so, questa cuccia rimane fissa qui oppure parte fuori dal papiro? Ah? La lupa rimane fissa qui oppure dal papiro fuori? Non lo so, lì mi ha detto che diceva novembre, fine novembre ci li vuole portare via, però mi pare, tanto male, rimane in ogni mare in verro, buco. Va bene, dice che qualche spazio. Qualche spazio, se non va bene, avanti, ma chi? Io un cane piccolino lo puoi tenere in casa, ma una bestia del genere, una lupa. Ci vuole posto, ci vuole un terrazzo grandissimo, entro casa è in galera. Esatto, un piccolo spazio è anche riservato. Avanti, to. Infatti quella lì ha bisogno, mi usi come ti la giocava, ha cominciato a correre, poi ha un paraiso che faccio, mi hai fatto una corrida da 8 e 2, ne ha già regato, ha mangiato e si è coccato, non l'ha visto, perché bisogna fare così, anche loro bisogna correre, muoversi e così via, non può non essere chiuso in casa, una galera, non avanti da chi? Sono in galera, i cani chiusi in casa, per cosa che ho io per spostarci in casa, per quella topolina che c'è in campagna, bella postarsi, neanche perché voglio spazio per giocare, per girare e fare. Vedi, pensa che è piccolina quella, vedi, quella è piccolina, ma anche lì ha bisogno di essere esigente, non vengo in là, avanti tu. Quella è insieme a quelli che ci sono lì, però se banda là dietro un po' lontano, ecco cos'è, già sta bene dove è. Non è trattata male, ma cazzo, se anche qui devi fare un bello viaggio, è mezz'ora di viaggio, ma all'anima non lo so, faccio ogni giorno, scendi, no? Oh, una settimana sì, una settimana no, è un cane, cazzo, è una nostalgia. Purtroppo devo fare così, devo fare ogni settimana, non ci posso scendere. Sì, ma devo trovare il modo di portarmene vicino, me lo avevo tutti i giorni dopo. Ho capito, è un casotto, un grande casotto, avanti, ma chi? Ma per avere così meglio nulla, perché si soffrono per i cani, si vedono abbandonati, ecco, si vedono abbandonati. Ogni giorno deve scendere, un giorno sì, un giorno no. Sì, e allora, se vivono i 20 euro di gasolio, manda in chivi, andai in torra. Allora, come sia, sei un capitalista, cosa vuoi sia? Non so, ci vuole una finanziaria di voi, sennò a voi. Allora, perché sono lontano? Scusa, perché non scendi qua e chiedi a quello di dove ti sto dicendo io? Vedi quanto vuole e ciccia, quando vuoi venire, lo puoi guardare ogni giorno, quando ti piace. E c'è il dormitorio per cani anche pulito, guarda. Ah, se paghi, me la lascio in ghidda e non mi dico i beggiani, ma nei noghi non sai come, non riconosce né nulla. Mi disturba, scusa, tu lo lasci e basta, poi ce l'angelo, la maniera tutto vende. Devi pagare l'affitto, la luce e basta, scusa. Non so quanti cani c'ha questo anche, da fuori, da casa, il muro. C'è un cane che lui tiene anche per quelli, uno va in ferie e così via, capito? Vabbè, c'è quello che devi tenere, che te ne tenga un giorno, andare a mano parecchio. Non lo so questo, è tutto da chiedere, anzi, ma chi? Poi a bere demo già fa. Piano piano, c'è anche un piccolo terreno, allora va bene, se no c'è un rosaccio, avanti la casa. Ah, in Terrazzino sono, stavano bene. Dove? Terrazzino, vincerò tu oggi. Poi, tutti e due no, così, ma tutti e due no. Ah, per voi stanno lo stesso. Sempre a quella vita, quello la portare giù, e salgono, tranquilli. E lì stanno meglio di essere dove sono, perché devi mangiare quando vuoi, devi mettere l'acqua fresca, è tutto. Sì, ma uno lo puoi lasciare solo quando esci, ma lui deve fruggire a casa. No, ho detto questo, non voleva entrare, è stato installato in toto, in terrazzino. Tu ti sono giù da razzina che si acciappa e si fudi gli occhi e si fudi, sa. Se non vedi che non ve ne una cosa, che la tieni pure, già rada così, se si fudi gli occhi. Tu pensi, vai da si fudi gli occhi, suicidio. No, vai, vai, ma sarà anche da, sa di più ben che da. Mi guardo se riesco a trovargli qualche posto, e coso, vediamo. Poveri cani, poveri cani. Sei più vicino non so quanto. Non vuole mia figlia, no, a portarli così, una specie di canile, non vuole a portarli. Preferisce lasciarlo là e basta. È un canile, questo non lo mettono per cane, ripeto, non so quanti cani c'ha, ma è pulito, me. Il posto è pulito, sono loro, sono bravi, adesso non cane adesso, non è la cane dentro la cuccia tutto il giorno. Adesso non c'è fuori, sono giocare, capito? Sono ragazzi che ce l'hanno, vicino da quanto. Beh, anzi, No, non vuole mia figlia, per aggio gli ha accennato una cosa del genere, mi ha detto la sappi lì. Va bene, basta così. La padrona lì, avanti, ma chi? Non vuoi così. Quindi a dire, potete stire troppo i miei figli, io ho via, tu vuoi i cani? Non è tanto facile, no. Non è facile. Ha protestato, ti ascoltava, bella bella. Quindi i cani portano via. E poi i cani a via di Giucuro, quando sei così prepotente. Aria. E quando mai non capisce questa ragazza, ormai già è abbastanza grande. C'è che andarci lì ogni settimana, un sacrificio, poi il cane soffre. A cosa cavolo ce li hai questi cani a tenere buttati lì? A cosa vi dai questi cani? No. E cosa vuoi ti faccia? Cosa vuoi ti faccia? Ah, ti devi giocare a casa con un giardino. E voi siete in buccia. Non è facile anche quello, non è facile. Vabbè, sono che non sa conoscenza, non so l'altra. E ci vuole anche la materia prima. Bene, c'è stato qualcuno che vuole entrare, avanti. Aspetta un attimo che sono alla porta, Ok, vai. Avanti, ma chi? Capito. Chi vuole entrare non è entrato, è uscito, perché sono andato alla porta da conto. Da sole. Sicuramente. Ma va bene, che campagna oggi, ma chi? Ma quella, ho visto le... Cos'è quella? La pianta della banana. Com'è? Là? Non ho capito l'ultimo passaggio. Mi hanno dato una foto, qual è la pianta della banana qua lì? La pianta della banana, cioè, adesso ce ne sono due piccole. Devo provare a scalzarla e toglierne una, ma ce l'ho fatta l'altra. Tu mi hai dato una, tu mi ricordi, sei seccata, avevo un grano, l'altro cane non è, già non è da più. Non ha seccato, non è nata, stava questa piantina, sta bambino il gecko. Ma tu ce l'avevi, no? No, io ce l'avevo, ma è morto. prima. Le metto la coda per dirti al fianco fino a quando non attecchisce e poi lascio aprire la persa. Un punto riparato, già ce ne hai posto lì vicino, di fronte alla casa, dove, vicino alla palma, in quei paraggi lì, basta che abbia acqua lì, va bene. E l'acqua già ce n'è acqua, ce n'è abbastanza, non c'è problema. Bisogna dargliela, va bene ogni tanto. In estate gli do acqua due volte, tre volte alla settimana, non di più. Vedo che sta cominciando a soffrire, vai, bevi. Non è nato un giorno, no? Fai due o tre volte a settimana, vuol dire? Due o tre volte a settimana, adesso che piove, no? Adesso primavera è iniziale. Sì, figurati, non è buona la protezione, no? Va da sola e basta, vuol dire? E invece non so che tronco che si è fatto enorme, c'era secca e poi è ripartita e adesso ha fatto una bella pianta e c'ha tre figlioli, due sono andati almeno un metro e mezzo e l'altro è piccolino. Bella è, non mi sono piaciuto quell'altro, cioè, quando ero nato un paio di fa, come sarà, boh, facci questo di fa, sono così andato, mi ha cercato che mi ha regalato, giù mi circolando, poi c'è un po' di casotto, mi hanno distrutta. Adesso ho fatto la siepe, c'è un po' di spazio, c'è un po' di pulizia, anzi sta bene, ragazzi ho messo due alberi, faccio il giardino, come viene qualcuno, qualche filometro da sotto, quando sta togliendo, mi chiami e ce la porto via. Uno di questi giorni che adesso le do acqua, la lavagna, il fatto che il terreno sia morbido, per riscaldarle tirarla fuori con le radici, perché se anche fuori senza radici si secca, bisogna tirarla fuori almeno con qualche zolla. Sì, qua non sono scritto, domani lì che sono pronto, passo e te la prendo, così te la metto, faccio del forzo e te la metto, siamo da sotto, tra l'altro tutta la siepe ormai non è più all'ingresso, tutta a terra, l'ho appoggiata alla zappata e pronta a caricarla sul coso, sul cassone del mio vicino, qui lui fa giardini, così almeno, guarda, era così bella, ma è diventata invadente la siepe, va, sono arrivato un mese fa, era attorno a un mese fa, sono invadente, l'ho presa a terra. Non è buio, quindi un domani farò dei fili blocchiti, faccio un muretto basso, faccio e così via. Le radici le hai tolte? Le radici adesso le rompo le coppie, ma la bicco le butto un po' di disalbante, non si seccheranno. Le tagliate da sotto, proprio raso raso. Col piccolo, detto di quelli che riescono, l'altro complice di tutto il riservante totale ed era una bella passata. Quando sta cominciando a germogliare però, perché se ne vai adesso non fa niente, perché c'è legna, non assorbe. Appena ci sono le prime foglie era una passata di riservante e allora si servava. Esatto, non vedete da sotto, anche però, ma che da sotto, perché c'era un metro un cono, capito? Adesso ho detto, di dietro, no, le stacco le radici, no, le stacco a metà almeno. E poi non vedo qualcosa, ho avuto un po' di riservante, appunto, con lo totale, a seccarle. E così farò, adesso, piano piano, tanto usciranno adesso le foglie, quello che vuol dire, quel posto è umido e camminano come cono, cammino, come le bestie. Cresce, deve prendere la briga col picco, entrare da un qualcosa dalla punta del solco e tirarlo fuori tutto, togliere tutte le radici, ma c'è una volaccia a picco, voglia, non è mia vino. No, non c'è voglia, ma chi? Non c'è bugana, 0.0, non ho voglia, qui a casa c'è uno che ne ha meno voglia di me, figurati. Allegria, grande festa, capito? Solo la tagliava lui. E io la tagliava, ma la tagliava chissà cosa, ma era morto, era morto. Ma la visione, la giove, ma la giove che mi piace, la travagliata non mi piace, non preso. La travagliata in assalta. Ma se si è messo col picco dei giovani lui, un paio d'ore le aveva demolite tutte. Magari, adesso domani no, domani faccio una prova a fare da un cabo, piano piano, se riesco a fare da sopra, fianco, perché si inizia a uscirne piano piano. Quindi inizia a 1-1, ma che mi sono bene? Ma il muro lo potete fare all'interno della sete o all'esterno della sete? All'esterno non c'è la strada, c'era già, no? C'era già una fila di bocchetti già piazzata con la. A una parte c'era con la rete anche, capito? Lasciate palito, lasciato. Dunque la fila, il primo fila con la fila di bocchetti c'è già, ma che? Dunque all'interno è la sete. Ah, la sete era all'interno. E allora colpisco un pezzo ogni volta, lo puoi fare. E quello che avanza li metti in riservante. Il riservante la secca, però la legna ci rimane. E appunto, fa un piano piano. E devi fare un muretto come c'è l'ingresso, no? C'è un muro attorno ai fili blocchetti qualcosa, col coprimuro. Capito? A me così buzza sopra, ci c'è basso e basso, sono tre fili, sono 60. Già va bene, così continua il muretto, almeno no, c'è più, tanto c'è più luce. Anche ad esempio luce, però dice, la lampada è come non ce n'erano più, Si diceva che un mese, tra un mese, la lampada non si vedeva più nulla, no? Con la seconda lampada erano buio, ti guardi. Si copriva tutto, cresce sempre, poi era larga, tu l'hai fatta crescere larga, perché non è ristretta, invece è allargata, e più andava più larga diventava adesso. E è stata trascurata, ma chi? Trascurata, sono cosa là, sono per le cose, a fare le cose, vai là, fa avanti dopo. Ehi, sono rientrato. E andiamo, vai, andiamo, tutto che ti fa. Un cavallo, vabbè, piano piano. Un po' oggi, un po' domani, qualcosa bisogna fare, ne? Sono i remi che crepi, un po' no? Si tiene sempre in movimento e si appoggia. Come si aggira? Poi c'è pressione, non è che fai pure uscio, come vuoi scendere? Si deve mandare a bicco, un picco e si può trovagliare, lo sai lì? Sì. Subito buro. Vedi, tu sei sempre come quella persona che ha detto boccarsi, penso per te. Si voleva lavorare, ci vuoi venire, avanti, ma chi? Se forti attore, se forti, capito? Non sto facendo niente, scende chiacchierando e zappando. Era bene la ultima, a me invece uno sta lavorando, non deve bere niente, solo acqua, e se non è finito lo scopo, capito tu? Sì, non mi basta che si fosse con 20 nomi, certo, ne ha giù due campani, la colonna montante che da bassi, certo, sta intaggiata. Anche quello non è stato, purtroppo. Non è stata mai cambiata la colonna montante, non ancora a casa. No, prima mi sono andato all'autospurgo, quando è entrato all'autospurgo ha cremato dei dubbi. Sta potenza pure la base. Ma sono andate, tu mi impasti oppure internet? In coso, in Ghisa era. Come in Ghisa? In Ghisa. 47 anni virani. E te l'ha cremato? Autospurgo l'ha cremato, era troppo intasciato, ha fatto un piccolo buco. Anda, è sempre intasciato, era. Causa, purtroppo, quando 7 anni, non avevi sfacciato tu, l'ho sfacciato, così. E adesso abbiamo cambiato, ho messo quello buono, grigio. Che è grigio fuori e bianco dentro. Io l'ho conosco, l'ho visto la tua volta, l'ho visto il tuo, ma già va bene, va. Anzi, ma chi? Quindi sono in telefonatina, sono tutti in ghisa, cioè di telefonia. Anche il palazzo dove stava il CB che è morto, domenica, come si chiamava. Anche lì l'avevo sostituito quando lavoravo con De Lugo. È stato sostituito il tubo, era incasato. Di conto da sopra lanciavamo un contrapeso, una punta di quelle di molto picco, di quelle grosse, legate con una corda, non riusciva a bucare. Sì, guarda, sei potenza. La ghisa vuol dire che c'è la roba grossa sotto. C'è le ugli, c'è una mano, la vedi, si fa, si sta tutto, si fa la tappa, avanti, top. Questo ho fatto il buco solo di un tubo da 40. Pensa un po' cosa ha buco via, tutto quello che c'era. Andava a cosa e si intasciava. Un casotto, è un casotto, avanti, top. No, ma chi? Ma sei uscito, ma chi? Adesso è uscito solo. Sei uscito fuori dalla porta, sì. Sono seduto, tra poco esco. Stavo dicendo che il detersivo si attacca alle pareti del tubo e si restringe. Perché fa il sole, fa, capito? Fa il sole, dunque un po' domani, c'è un tubo al centro, 30-40, avanti do. E purtroppo col passare degli anni si ostruisce, no? E non riesci più manco a farlo grosso. Allora via, ed è coso, a becco e ci ambatti. Ma non c'è qualcosa che potete di stazione, no? Cazzo, niente. Oh vabbè, sul pezzo di sopra, della brega di sopra, del terzo piano abbiamo lasciato, che quello era buono. Ho lasciato 50 cm di tubo, abbiamo innestato tutto il resto. No, io pensavo ogni tanto, diciamo che tu qualche cosa di stazione, se facci scendere qualcosa di potenza, pulirlo ogni tanto. No, ma con quello, no, con i tubi di quelle cose lì, no, non staziona più nulla perché sono tubi scivolosi, non si attacca nulla a ghiaccio. Con questo nuovo carro di contatto, giusto, sì, questi sono sicuri. Sono fatti apposta, invece gli altri non possono più, avanti. Ma questo non si attacca nulla, non si attacca. Perché scivola, nettamente, avanti, ma che... Sì, ma c'è anche il coso. Solventi per pulire le fognature, adesso non è più come prima, adesso vai a comprare un solvente, adesso vendono a litri, non basta un litro, ne butti due litri, almeno mi bisogna mangiarlo, poi vedremo, lo fa lucido lucido. Perché scioglie tutto, scioglie e lo fa scivolare. Sì, ma questo tubo nuovo che avevo messo adesso, ma che con qualcosa bianco, già lo conosco, dove vado a fare la plastica, lo vendono, l'ho visti, proprio liscio liscio, dunque non è stata cadente, avanti dopo. E poi dove l'abbiamo comprato, qua in Viale Produttore, c'è dopo il coso blu, la Cugusi, quello, io credo che era un beccato, invece non è vero, si può comprare bene lì. Bene, privati, così, vende anche i privati, no? Sì, vende anche i privati, vende. È abbastanza, io credo che era un bel caro, invece non è caro. Più caro coso, è bricome che dico. Come che non è poi è specifico per l'idraulica. Come dice lo specifico? C'è la forza sedica, tutto quanto, c'è un bel capannone bello grande, avanti, ma che? E noi possiamo prendere un po' di soda, ci portava un po' di soda dentro, ora un macchino dello tubo non è a cavallo. Prima sì, però si usava la classe, la soda, sì, non deve sciogliere, con lì proprio acido potente, avanti, no? Sì, voi non pagheci che voi con un fisso coso, un cazzo, no, nulla da fare, non ha sciolto nulla, finta l'acido da un lampado, nulla da fare. Figurati quando in incrostazione c'era, figurati, avanti, ma che... Così era chiuso tutto, non c'era... aspirazione, non passava nulla, se non spirare che passa poco poco, vedrai come si allarga, è impressami, si mangia tutto. Là ce l'ho detto, va bene, avanti do. Mi chiudo già pure che vado a mangiare, vabbè, no, non è cosa di... Ormai lampado è fatto, allora se mi domani mangiano devo andare a fa pure, nelle scale, nell'ultimo pezzo di dentro il magazzino, la colonna. E un garaggio, tutto lampado la vedi, sì? Un pezzettino nel coso abbiamo aperto, dentro in cucina, sopra e sotto. Già hai fatto veloce, dai, mi devo guardare, domani coprite tutto la ciccia. Facendo l'acqua, stiamo facendo, meglio così, avanti da che. Io ne approfitto del microfono per salutarvi e passarmi in quella chica o lo trasferimento giù. Marino, ci sentiamo, stammi bene, grazie della piccola chiacchierata, saluta la signora e ci sentiamo. Io con le patatine anche per Tore, Tore, ciao, salutissimi, buona serata, buon proseguimento di questo. Saluta la signora, a domani se coincide. Battigia questo istante, ascolta Finalino e passa in quella chica da questa greca giù. Bye bye, riprendi Tore. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alla prossima. Andare. Se prende male, anche io comunque chiudo i miei sociamenti. Ci sentiamo, Mari, alle prossime. Ok, allora, anch'io, ciao Martino, mi hai sentito, sono tu in casa. Ciao anche a Tore, sono tu in casa, a domani se coincide. Ok, io faccio quello che ti, sono tu in ascoltone, cura questi problemi, ciao. Ciao Mari.